da Coca-Cola. Fuori dall'ufficio e fuori da scuola. Le bolle che friggono nella gola, che quasi gli tolgono la parola. Chi può farne a meno? Baby, in disco è pieno. Siamo al parcheggio, tu accelera che io tiro il freno. Tutta l'estate con i piedi dentro all'acqua. Dormiamo mangiando pillole come Pac-Man. Ragazzine vanno fuori per la Coca-Cola, fuori per la...